la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon martedì 8 di luglio, sono le 16.35, primi 37 secondi. Oddio, luglio, a Milano stanotte, stamattina tutto sembrava tranne che luglio, mi auguro che altrove in Italia non sia così, ma insomma nel nord è stata una notte pesante dal punto di vista delle piogge e di tutto quello che succede in questo paese disastrato dal punto di vista della tenuta idrogeologica. In ogni caso, l'argomento per le chiamate di oggi all'800 24 00 24 e per i messaggi al 349 238 6666 è i saldi. In quasi tutta Italia sono cominciati in questo ultimo fine settimana, tranne che nelle località che avevano già avviato il fine settimana precedente. Diteci qual è, se ci chiamate, la vostra predisposizione al consumo. Vi darò qualche dato sulle stime, se davvero ne approfittate, in che modo, se siete delusi dagli anni precedenti, che cosa chiedete dai saldi, se ci mettete gli 80 euro siete lavoratori dipendenti che avete ricevuto il bonus, li spendete o meno. I dati dicono di no, perché il più di quegli 80 euro vanno a recuperare il reddito perduto piuttosto che vengano tradotti tutti in consumi. Da questo punto di vista però noi tentiamo anche di occuparcene parlando dei commercianti. Perché? Ecco, prima di presentarvi l'ospite, pensate che noi siamo tornati, in quanto consumi delle famiglie, a livello del 2004, cioè siamo esattamente tornati a 10 anni fa, perché anche nel 2013 la spesa media mensile delle famiglie è scesa di un altro 2,5%, e quindi la media, come tutte le medie, quindi cioè chi è molto meno e chi di più, ma comunque la media italiana è di 2.359 euro la spesa media mensile della famiglia, ripeto, non pro capite, e siamo esattamente meno che nel 2004, perché nel 2004 erano, tenuto conto della crescita nominale, cioè dell'inflazione, depurata l'inflazione, erano 2.381 euro, quindi siamo tornati più indietro di 10 anni fa. Abbiamo perso l'equivalente, negli ultimi solo 8 anni, in quelli di crisi, di 470 euro mensili di consumi. Ecco, naturalmente poi si distribuiscono secondo le diverse specializzazioni di consumo, alimentari, abbigliamento, eccetera eccetera, in proporzioni diverse, questo arretramento generale dei consumi, che dipende da una diminuzione del reddito disponibile per le famiglie, che si deve al maggior numero di disoccupati, ai rapporti di lavoro che da tempo determinato sono diventati a tempo indeterminato, part time, eccetera eccetera, quindi un reddito disponibile molto molto arretrato. E la speranza di molti è che attraverso operazioni come quella dei saldi naturalmente tornino un pochino più sui consumi, il PIL e così via, ma le condizioni di partenza sono queste qui, sono condizioni cioè che rendono molto difficile immaginare che davvero ci sia un balzo in avanti. I primi bilanci che sono venuti in questi primissimi giorni di avvio dei saldi sono stati, per così dire, abbastanza positivi, ma si riferiscono solo ad alcuni giorni. Se andate sul sito di Confcommercio vedete una prima stima di Confcommercio Milano che parla di un più 5% l'avvio dei primi 2 giorni di saldi estivi 2014 rispetto a quelli del 2013. In Veneto, ecco, di tutte le parti d'Italia dove c'è un primo bilancio che trovate sul sito di Confcommercio, perché c'è per Pescara, c'è per Napoli, di sicuro il Veneto è quello che vede nei primissimi giorni dei saldi un più fermento, pare, rispetto al 2013. Però per fare il bilancio è presto. Il problema è capire come la vedete voi, se siete consumatori, ma poi bisogna innanzitutto vedere anche come la vedono gli operatori. E infatti oggi ho deciso di far parlare non tanto dei saldi, un classico rappresentante delle organizzazioni del commercio e così via, quanto ho scelto uno di coloro che hanno scritto, fatelo voi tutti, lo sapete, per segnalare gli argomenti del giorno, ciò di cui volete parlare o le vostre proteste, e c'è scritto un commerciante nei giorni scorsi che proprio in previsione dei saldi mi ha mandato una lunga lettera di riflessioni che secondo me vale la pena di ascoltare, quindi ringrazio di essere qui con noi questo ascoltatore, commerciante di Siena, che si chiama Lorenzo Perriccioli. Buon pomeriggio e grazie Lorenzo. Buon pomeriggio Oscar, saluto a tutti i suoi ascoltatori. Allora, l'inizio della lettera diceva, per favore se parlate di saldi, evitiamo i luoghi comuni, no? Che dicono adesso i commercianti, siccome vendono poco durante l'anno, cercano di recuperare con i saldi, perché cerchiamo di spiegare che in realtà con i saldi cosa fa il commerciante, guadagna, dove, quando. Allora spieghiamo un po' questa cosa. Il commerciante rinuncia nel periodo dei saldi a una parte del proprio guadagno cercando di aumentare le vendite, però questo rinuncia a un senso, l'argomento sarebbe stato quello della data d'inizio, una cosa molto, mi sta molto a cuore. Se questa data d'inizio è posticipata, cioè quando la stagione è matura, quando uno ha avuto certe cose, ha un senso. Se viene anticipate, facevo l'esempio del mercato della frutta, se lei va al mercato della frutta un'ora prima della chiusura è facile che trovi tante occasioni, si vogliono liberare delle cassette eccetera, ma se lei va al mercato della frutta all'apertura e trova tutti i fruttivendoli con tutte le cassette piene che gli dicono che li fanno alla metà prezzo, qualche dubbio gli deve venire. E questa è la fotografia del commercio, dei saldi del commercio di oggi. Cioè una fotografia in cui lei dice le date ufficiali delle aperture sono troppo anticipate rispetto alle stagioni. E anche tutto il sistema saldo un po' poco credibile, ecco. Perché se si comincia con la cassetta piena e io gli dico che li faccio a metà prezzo, può darsi che ho già messo un 50 in più prima e poi dopo ritorna al prezzo normale. Che a dire la verità è un classico delle preoccupazioni e dei pensieri dei consumatori, questo che lei dice, quindi è però abbastanza singolare, raro che lo dica un commerciante. Però il consumatore come associazione dovrebbe capire che questo anticipo senza fine, quest'anno addirittura qui l'estate è cominciata, il saldo è cominciato proprio prima, perché ancora non è venuto il caldo, c'è stato un periodo piovoso, per cui è sempre fresco. E ci sono già i saldi, i clienti mi dicono ma di già li fate, per cui se si fa sarebbe il consumatore, l'associazione dei consumatori che dovrebbe essere vigile su queste cose e dire probabilmente è troppo avanzato, evidentemente si perde un po' della vera realtà della cosa. Allora, come è andata negli anni passati? Negli anni passati, nel 2013, la stima che è stata il valore dei saldi estivi, quelli che sono appena cominciati, è stato più o meno intorno a 3,6 e qualche cosa miliardi di euro, con un'incidenza percentuale dei saldi estivi sulle vendite totali dell'anno pari al 12%, e su un totale di famiglie italiane che stanno intorno a poco meno di 26 milioni, 25 milioni e mezzo rotti, circa 15,7 milioni, su questo 25 milioni e mezzo, nel saldi estivi 2013 hanno comprato, con un acquisto medio per famiglia nel 2013 che è stato intorno a 229-230 euro, quindi siccome il numero medio dei componenti della famiglia è 2,3, bassissimo ormai in Italia come sapete, un acquisto medio per persona intorno ai 99-100 euro, queste sono cifre disaggregate e rielaborate da Commercio. Iniziamo a sentire il primo ascoltatore che ci chiama Davide da Milano, prego Davide. Buongiorno, volevo intervenire a proposito del fatto che ho notato, diciamo, il primo giorno di saldi a Milano, ho fatto un giro in centro e ho notato che delle code pazzesche, però soprattutto concentrate su beni di lusso. Cioè il triangolo della moda, insomma le tre strade della moda. Piazza Duomo, cioè. Diciamo la Rinascente era un po' che non ci stavo, hanno allargato impressionantemente piani e piani dedicati al lusso, c'era un piano dedicato alla gente media, diciamo al prodotto medio, e poi ho visto anche altre vie con i prodotti di taglio medio e lì non ho visto le code, non ho visto, diciamo, la ressa. Ho visto ressa dove c'erano scarpe da 600 euro scontate del 50%, vestiti apparentemente normali da 1.400, 1.800, così, ecco, ho notato questa cosa. Allora la mia considerazione è ma è il ceto medio che è ora disinteressato, è ora spensierato e non gli interessa, oppure tra virgolette c'è da pensare qualcosa di diverso o fare delle considerazioni anche su questo fatto, anche sul fatto, certo. Che il lusso tira tantissimo il ceto medio. Io poi abbia pazienza, Giannino, io parlo anche un po' per me stesso, magari cerco divago, ma io guadagno, e lo dico volutamente in lire, sui 90-100 milioni all'anno. In termini in lire, appunto, no? Lo ripeta, lire. Perché sennò... In lire. Ecco, in lire. In lire sono 90-100 milioni all'anno. Non le dico in euro quanto si riduce o in termini di capacità d'acquisto, ma quello lo può, diciamo, tradurre lei. No, si figuri, certo. In lire 90 milioni, 100 milioni era stava molto bene. Allora, grazie Davide. Io quello che posso dire è che anch'io sabato e domenica ho girato parecchio per Milano, perché dovevo andare per librerie, mi servivano delle cose eccetera. In effetti, strade come Monte Napoleone, come Via della Spiga e così via, c'era moltissima gente, però questa moltissima gente era fatta per l'80-85% da stranieri, perché erano russi, americani, giapponesi, qualche arabo, meno di quanto mi aspettassi, ma tantissimi russi, americani e giapponesi. Però lì stiamo parlando proprio del lusso, mentre qua i saldi dobbiamo avere in mente che stiamo soprattutto parlando, io ho fatto tutti i dati su consumi medi e attese di consumi medi della media famiglia italiana, perché è quello che poi è il vero propellente sull'economia. Abbiamo le strade, una risposta sono un ascoltatore che dice: ieri Giannino ci dicevi che però tu preferivi concentrare non sugli 80 euro di bonus ma su meno IRAP alle imprese l'effetto, e oggi ci dici che i consumi sono bassi. Sì, e vi dico anche che quegli 80 euro non si traducono in consumi per i redditi da ricostituire, e perché con l'aumento delle tasse che continua la gente non si fida e risparmia più che consumarli. Invece se noi li concentriamo sulle imprese, cioè più posti di lavoro, noi ricostituiamo i redditi, e questo nel breve periodo. Non troverete un economista in una qualunque scuola che non vi dica che nel breve periodo l'effetto di crescita economica è più breve e più intenso se si fa quella cosa. Certo, è più impopolare, è più facile dire diamo 80 euro a tutti, ma quando i redditi sono così aggrediti rispetto agli ultimi 10 anni, è ovvio che non si tramutino poi tutti in consumi, cioè in sostegno PIL aggiuntivo, in più posti di lavoro. Questo è il balaio. Non sto dicendo sbagliato darli, vi dico che nell'alternativa tra poche risorse bisogna farsi un conto di che cosa ci faccio, cioè levare di più rispetto al culo molto basso per terra che abbiamo, essendo arretrati di anni e anni. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:49 primi, stiamo parlando dei saldi, l'avvio dei saldi, le attese moderate rispetto a redditi disponibili delle famiglie e andamento dei consumi che sono arretrati di moltissimi anni. Siamo partiti dalla testimonianza di Lorenzo Precioli, commerciante di Siena, che dice: ma insomma, questi saldi sono troppo anticipati. E già noi vendiamo così poco come si vede l'andamento dei consumi italiani, e quella diventa una gara a privarsi ancora di ulteriori margini. Attenti a non cadere in trappola nel coprire di significato salvifico questo evento dei saldi. Sentiamo ancora qualche ascoltatore e poi torniamo al nostro ospite. Vittoria da Milano, prego Vittoria, che pensa? Buongiorno signor Giannino. Senta, io non vado più per saldi. Perché? Prima di tutto perché ho un'età di 70 anni, giovane, cioè giovanile nel senso che sono normale di tagli eccetera, non trovo più niente che va bene per me. Trovo delle cose estrose in saldo di tutti questi grandi marche, catene del centro, Vittorio Emanuele, Compagnia Bella, Corso Venezia, non ci sono più i negozi diciamo che avevano non la grif ma cose buone, di buona marca, che duravano eccetera, quindi non mi interessano più. Inoltre io vivo della mia pensione e del reddito che mi danno i miei risparmi. Con quest'andazzo che tra il blocco di monti delle pensioni, tra le tasse regionali che sono aumentate, io prendo 30 euro almeno al mese di quando Monti mi aveva bloccato la pensione. Secondo lei posso andare in giro a spendere, aver voglia di spendere? Neanche per idea. Vittoria, io più che mandarle un abbraccio, purtroppo non la posso consolare, ma è la stessa condizione in cui sono altri milioni di italiani. Questo che Vittoria ci ha spiegato è l'aritmetica della mancata crescita italiana. C'è poco da fare, avendo scelto la strada di farla tutta per via di tasse, per non aggredire la spesa corrente dietro cui ci sono interessi, clientele, eccetera, eccetera, ecco quello che è avvenuto. Poi sì, tutti vi raccontano che è colpa dei cattivi tedeschi, ma il mix di politiche e di bilancio pubblico l'abbiamo scelto in Italia, no? Però non è che ce l'hanno imposto gli altri. Comunque, Andrea da Genova, come la pensa? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, senta, io sono un artigiano, quindi sono un po' esulo un po' dal fatto degli artigiani. Sì, non è un commerciante, ma è comunque un consumatore. Lei dei saldi ne approfitta o no? Va a comprare con la famiglia? No, le spiego. Io le spiego che ormai questo sistema dei saldi sia già strapassato remoto, anche perché le faccio un esempio: noi cercavamo per esempio un ferro da stiro in famiglia, ormai c'è tutto un commercio online che fa già saldi di prodotti visti nei negozi già saldati. Cioè qui l'Italia questo passo dei saldi, se proviamo a fare un articolo sul giornale per fare un occhiello, un commento diciamo su questa cosa qua, ma certo non salviamo, non è che non salviamo, non servono praticamente quasi a niente, insomma è un po' un abbaglio per la popolazione. Ormai il mondo è cambiato sia commercialmente che esatto. Allora, lei apre incrementare il PIL, esatto, cioè, diciamo, non esiste, l'idea dei saldi col calendario ufficiale eccetera eccetera è un'idea da mondo chiuso, mentre invece voglio dire il mondo è andato avanti, ecco, e soprattutto è un mondo anche falsato, ci dice Lorenzo. Torniamo a Lorenzo, perché nella lettera lei a un certo punto dice: noi già come commercianti siamo una categoria, lei usa il termine cannibale, poi se ne scusa qualche riga dopo perché sembra ecco, un po' duro verso i colleghi, lei non ce l'ha con i colleghi, dice però naturalmente mors tua vita mea facendo questo mestiere, se poi per questa modalità organizzativa regolata dall'alto dobbiamo ulteriormente comprimerci, diventa ancora più cannibale la faccenda, e quindi si moltiplicano magari le finte promozioni fuori dai saldi e così eccetera eccetera, è un po' così, vero? Perché una cosa banalissima che proprio mi sogno di dirla nella sua trasmissione è che i prezzi sono liberi. Se uno si vuole sbizzarrire a far del bene ai propri clienti, la merce la può regalare quasi. Per cui le scritte nella porta servono per attirare, perché tutti sappiamo come commercianti che se vediamo una cosa a 20 o la mettiamo con la scritta 25 scontata al 50%, si vende di più quella a 25. Per cui tutto si basa su questa cosa della psicologia umana, però tutti quelli che vogliono queste date sempre prima, perché se no non possono fare, se sono dei benefattori e vogliono fare dei prezzi bassissimi, lo possono fare sempre, la catena si riduce la percentuale, sentiamoci, esatto, quello che vuole. C'è un ascoltatore che mi presentano, Mario da Bari, dicendo che ha 5 negozi di abbigliamento. Mario, è così? Sì, ciao. Eccoci, buonasera. Senta, niente, volevo un po' ritornare al discorso dell'inizio dei saldi, che purtroppo non decide il piccolo imprenditore l'inizio dei saldi, ma l'inizio dei saldi è anche dettato un po' da anche delle multinazionali che hanno aperto un po' dappertutto in Italia. È sicuramente una data quasi palliativa, poiché nella maggior parte delle catene ci sono promozioni quasi durante tutto l'anno. Sì, esatto. Anche si incomincia a intravedere in Italia anche la cosiddetta sale mid season, cioè dei saldi durante la fine della primavera, prima dell'inizio dell'estate, su quella parte di abbigliamento, perché io mi occupo di abbigliamento, quindi dico di abbigliamento, di quell'abbigliamento primaverile che va a sconto ai primi di maggio addirittura. Quindi io credo che un po' bisognerebbe evolversi per quanto riguarda i saldi, e anche perché se va adesso, come lei è andata a Milano, vede già nelle vetrine già le nuove collezioni. Ah, certo, certo. Per così dire, quindi è anche difficile poter dire i saldi iniziano presto quando poi nelle vetrine c'è già la collezione autunno-inverno. Grazie Mario per questa testimonianza, opinione. Concludiamo con torniamo a Lorenzo Periccioli. Lorenzo Periccioli dice: il rischio di questa maniera organizzativa è quella che il commerciante più scorretto di tutti appaia il più onesto di tutti. Sì, perché quello quello che fa il prezzo basso, cerca di invogliare la clientela mettendoci il meno possibile, eccetera. Poi arriva sempre il cliente che le dice: vede, l'altro mi ha fatto il 50% di sconto, quando poi alla fine lei glielo fa 5 euro meno dell'altro, però l'altro è quello che fa del bene e lei è un ladro. E lei è un ladro. Allora, io lo so che è una maniera anomala quella di parlare dei saldi facendo parlare i commercianti, però io sono sempre un po' asimmetrico. Comunque, attenti a quel che comprate in questi giorni, e mi dispiace per tutti coloro che naturalmente non hanno abbastanza soldi per levarsi nemmeno un po' di soddisfazioni quando c'è lo sconto. Purtroppo sono milioni gli italiani in queste condizioni. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.